in primo piano. Buongiorno, buona domenica e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 da Giulia Crivelli. Cominciamo come sempre dal Corriere della Sera, che ha una grande fotonotizia con tre ragazzi, i cosiddetti angeli del fango di Genova, tre ragazzi impegnati a spalare appunto dopo l'ennesima alluvione a Genova. In questo caso il titolo è La catena delle responsabilità, lo avete sentito nei GR, nei telegiornali ieri sera, questo rimbalzo appunto di accuse e per capire di chi sono veramente le responsabilità, è cosa che tra l'altro sarà molto difficile. E vi segnalo quindi l'articolo di Gianantonio Stella, che in pieno stile Stella, possiamo dire così, ha sia dei dati che ci ricordano quanto lo scandalo, insomma, dei fondi non utilizzati dopo che erano stati stanziati per l'alluvione del 2011, che assomiglia molto anche come conseguenze e come genesi, mancati allarmi e soccorsi arrivati in ritardo, a quella di questi giorni. Il titolo: non ci hanno avvisati, il politico ligure alla gara dello scaricabarile. Vi leggo le prime righe, perché appunto in questo articolo, che inizia in copertina del Corriere della Sera e continua a pagina 2, ci sono sia i dati che le considerazioni di Gianantonio Stella. Di fronte alla politica del governo Berlusconi, che ha affossato la prevenzione contro il rischio di dissesto idrologico, puntini puntini. Lascia increduli a rileggerla oggi la nota ufficiale del PD del 7 novembre 2011, subito dopo l'alluvione di Genova che uccise 6 persone. Riassunto: tutta colpa della destra, tutta colpa del Cavaliere, tutta colpa del governo in carica. Naturalmente, aggiungo io, Stella spiega che non è così, e poi parla naturalmente da una parte del taglio dei fondi per il disastro, per il rischio idrogeologico che corre Genova, la Liguria, ma tantissime altre zone del nostro paese, però spiega anche alla fine di quelle che oggi chiamiamo bombe d'acqua, scriveva già Dante Alighieri. Lo sappiamo, la natura, a dispetto di ogni genio della meteorologia, può coglierci di sorpresa, ma non ne possiamo più di un paese che, come denuncia un dossier Legambiente, spende ogni giorno solo 200.000 euro per la prevenzione e 800.000, cioè il quadruplo, per intervenire dopo ogni sciagura. Tanto più in una regione quale la Liguria, dove da anni ci sono 8.392 frane censite e un indice di franosità molto più alto della media nazionale, già stratosferica rispetto a quella europea, e dove intere province come La Spezia hanno il 100% dei comuni a rischio. Vediamo la prima pagina della Repubblica, anche qui una fotonotizia, anche qui un ragazzo praticamente coperto di fango che trasporta in un secchio altro fango. Il titolo: Genova, la resa di Gabrielli, che sapete è il numero uno della Protezione Civile, che si è sì recato sul posto ma ha anche detto: questo Stato non sa difenderci. E in questo caso vi segnalo, oltre a tutta la cronaca che trovate naturalmente nelle pagine interne, un'inchiesta di Fabio Tonacci: paralizzate 8 opere su 10 dal Seveso al Sarno, così la burocrazia impedisce la sicurezza, perché in quella ricerca di responsabilità c'è anche appunto quella di alcuni tribunali, alcuni tribunali amministrativi, che hanno bloccato in alcuni casi l'arrivo dei fondi o l'inizio delle opere. Ma dalla prima pagina della Repubblica, che in realtà dedica il titolo principale a quello che è successo al Circo Massimo ieri, cioè l'incontro, il raduno dei 5 Stelle, che proseguirà anche oggi, del Movimento 5 Stelle, Grillo, e Repubblica sceglie di titolare su questa frase molto forte di Grillo, che avete sentito, ha detto: ci vuole l'esercito per stoppare Renzi. Vediamo subito la prima pagina del Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, e qui la fotonotizia occupa non è una fotonotizia, ma è la foto che illustra la prima pagina del Secolo XIX. Il titolo è: Genova sulle barricate. Anche qui foto di persone che cercano, interamente coperte di fango. Ieri per fortuna Genova non ha piovuto, ma oggi potrebbe piovere di nuovo, e persone che cercano di sgombrare o di aiutare. Tantissimi naturalmente i reportage, le inchieste. Vi segnalo comunque anche sulla prima pagina del Secolo XIX, ma lo trovate anche, ho controllato anche sul sito del giornale, che è Il Secolo XIX, scritto x1x.it, ci sono tutti gli estremi per fare una donazione, quindi la sottoscrizione. Qui sulla prima pagina c'è l'IBAN con la causale alluvione Genova 2014, per chi appunto vuole dare un aiuto, magari non può andare lì fisicamente ma vuole dare un aiuto economico concreto. La prima pagina del Sole 24 Ore, anche qui fotonotizia dedicata a Genova, con un uomo che si copre il viso per la disperazione, dietro di lui il cortile forse della sua casa, coperto di detriti. L'alluvione di Genova, l'allerta è massima, lo sapete, sia oggi che domani, e poi c'è un'analisi che trovate a pagina 8 di Mariano Maugeri su, anche in questo caso, tutto quello che c'è dietro una disgrazia, una tragedia come questa, più che una disgrazia, perché insomma la natura, come diceva anche Stella, è imprevedibile, ma è una cosa a cui sicuramente non possiamo opporci. Le piogge improvvise o torrenziali, quello che naturalmente si può fare è cercare di minimizzare, appunto, il rischio idrogeologico del nostro paese. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche, come ogni domenica, l'intervento dell'arcivescovo di Chietivasto Bruno Forte, che oggi si occupa, visto anche la concomitanza con il sinodo, la cui priorità era appunto la famiglia, l'urgenza di riflettere sulla crisi della famiglia. Per quanto riguarda invece la lettera al risparmiatore, altro appuntamento fisso della domenica del Sole 24 Ore, oggi Vittorio Carlini si concentra su Mediobanca, il titolo della banca di famosa fondata da Enrico Cuccia, Mediobanca verso lo sbarco in Messico, con maggiori ricavi dalle commissioni nette. Trovate tutta l'analisi poi a pagina 18. La stampa ha un, come spesso fa, sapete, quello che noi in gergo chiamiamo palchettone, cioè un titolo subito sotto il logo del giornale, che in questo caso è un'inchiesta che poi trovate a pagina 2 e pagina 3 di Domenico Quirico, l'inviato della Stampa, che è andato a Freetown in Sudafrica, in Sierra Leone, e racconta proprio da lì e non da qui come si vive e si muore nel paese decimato da Ebola. Secondo la Stampa ricorda, tra l'altro, nella foto a corredo di questo dello strillo, del richiamo, del reportage di Quirico, ricorda che sono a oggi 4.033 le vittime per il virus secondo l'ultimo bilancio dell'OMS. La Sierra Leone ha dichiarato lo stato di emergenza già dal 30 luglio. Magari qualcuno di voi ricorderà, se magari mi ha ascoltato la rassegna stampa di Radio 24 in agosto, che ne abbiamo parlato tanto di questa emergenza che montava, notando che il giornale italiano che se ne occupava di più era stato Il Messaggero. Anche oggi ci sono, come vedremo, alcuni approfondimenti, e appunto adesso che hanno cominciato a esserci i primi casi e i primi morti in Occidente, tutto a un tratto anche tutti gli altri giornali hanno iniziato a occuparsene in modo più serio e continuativo. Il titolo principale, però, sotto appunto quello che abbiamo detto, è il palchettone, è Genova il giorno dell'ira, il disastro si poteva evitare. La Stampa valuta i danni per 300 milioni, ci sono altre stime che parlano di 200 milioni, ma comunque insomma sono tantissime. Gabrielli, capo della Protezione Civile, previsioni sbagliate. Vediamo la prima pagina del Messaggero. Qui invece è un titolo più economico, perché si parla già di quello che potrebbe essere il documento di il documento di programmazione finanziaria, che su cui il governo sta lavorando. Ecco, ci sarebbe un'ipotesi ancora sull'IVA, anche se, lo sapete, nei giorni scorsi il Premier e anche il Ministro per l'Economia hanno escluso l'aumento dell'IVA. In realtà, secondo il Messaggero, ci sarebbero IVA e giochi in questa ricerca di trovare questi 4 miliardi per far quadrare i conti. Nei piani del governo la reverse charge e l'aumento delle imposte sull'azzardo. Il Premier, ricorda Messaggero, ieri ha di nuovo, tra virgolette, sfidato Bruxelles: la manovra non si tocca, rispetterò solo il vincolo del 3%. Ancora un richiamo anche qui alla quella che viene definita la festa al Circo Massimo, con anche qui la scelta di riportare quella frase di Grillo: l'esercito freni il Premier. E poi una notizia che non c'è sugli altri giornali, trovate poi approfondita a pagina 17 del Messaggero: contratto Fiat, buste paga diverse in ogni fabbrica. Fiat Chrysler, che sapete tra pochi giorni debutta anche come titolo FCA a Wall Street, brucia il Jobs Act e anticipa la riforma dei contratti in Italia, calcolando gli aumenti in base alla produttività delle singole fabbriche più che sulle regole nazionali. Sapete che è una delle tante riforme del lavoro sul tavolo, e che è in parte contenuta nel Jobs Act, è appunto quella di cancellare i contratti nazionali e lasciare che le singole aziende, soprattutto quando sono molto grandi, si facciano dei contratti su misura. Il Messaggero in prima pagina anche qui ha Ebola, come vi dicevo, contagio possibile prima dei sintomi. C'è poi un articolo a pagina 14 che spiega come l'affermazione di ieri del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, secondo cui il virus può essere trasmesso da un malato a una persona sana prima di 21 giorni dal momento del contagio. Quindi sono leggermente modificate appunto le scansioni su come viene trasmesso il virus, ma sapete che il virus Ebola e la malattia è ancora molto misteriosa, tant'è che, lo sappiamo, non abbiamo un vaccino vero e proprio, ma solo vaccini e cure sperimentali. Prima di lasciarci un attimo per la pausa sul meteo, la prima pagina dell'Avvenire, una copertina completamente diversa, lo stato dell'odio, l'IS, l'Islamic State, avanza in Siria, duri combattimenti a Kobane assediata, 530 morti, in Iraq il califfo ora punta su Kirkuk. Ci sarebbero forse anche degli italiani tra i peshmerga, a Mosul intanto si registra l'esecuzione di 4 donne, 2 di loro erano medici e il saccheggio di 70 villaggi, sono 300.000 i curdi in fuga. Ci sentiamo subito dopo la pausa per il meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, dopo aver visto quelli principali vi segnalo la Padania che oggi ha una foto di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, che si trova in Russia in questo momento e ha fatto questa mossa abbastanza eclatante di far capire quanto la Lega sia contraria alle sanzioni che l'Unione Europea e quindi anche l'Italia ha imposto alla Russia per la crisi con l'Ucraina. Quindi il titolo: Salvini rompe l'embargo, prosegue la missione di in Russia del leader del Carroccio che ribadisce il no alle sanzioni. In questo paese operano 400 società italiane, ricordo a Renzi che il 30% del gas che usiamo viene da qui. Oggi Salvini sarà in Crimea, la Lega è schierata per il diritto all'autodeterminazione dei popoli. C'è naturalmente del vero in quello che dice Salvini, cioè il fatto che molte società italiane stiano soffrendo per il fatto che per queste sanzioni imposte alla Russia, però naturalmente la questione geopolitica è purtroppo molto complicata e tra l'altro le sanzioni sono legate al fatto che noi siamo comunque all'interno dell'Unione Europea, addirittura adesso il ministro degli esteri europeo, lo sappiamo, Lady Pesk è un'italiana, quindi non è così semplice opporsi a una decisione dell'Unione Europea. La prima pagina del manifesto, smotta Italia, anziché naturalmente sblocca Italia, che è il titolo del famoso, di uno degli ultimi decreti legge varati dal governo Renzi. La fotonotizia è quella di persone che cercano di liberare alcune auto che si sono accartocciate una sull'altra dopo l'alluvione. Genova è in ginocchio, danni peggiori di 3 anni fa. La pioggia non dà tregua e il capo della protezione civile, anche in questo caso Gabrielli, citato dal manifesto, siamo in piena emergenza. Vi segnalo la prima pagina del giornale che ha un titolo diverso, un po' come fa il Messaggero sulla questione di che forma prenderà la finanziaria. Pronto il condono fiscale, i conti non tornano, il governo sta mettendo a punto una nuova sanatoria. Questa naturalmente sarebbe una decisione un po' a sorpresa perché fin dall'inizio del suo mandato il governo Renzi aveva detto mai più condoni fiscali, vedremo. Ma vi segnalo in realtà la rubrica QQ di Marcello Veneziani perché oggi è dedicata alla radio ed è secondo me molto bella, si intitola Nonna Radio ha una marcia in più. Sapete che da poco sono stati celebrati i 90 anni della radio che in Italia è nata nell'ottobre del 1924 e scrive Marcello Veneziani: la radio non è la preistoria dei mass media, è qualcosa di più, di magico e di imbattibile. La radio è insuperabile perché è l'unico medium compatibile con la vita. Tu puoi farti la barba, puoi lavorare, puoi guidare, puoi correre, fare sport, puoi fare ogni cosa mentre ascolti la radio. Con la TV, il tablet, il PC, no, ti occupano la vista. La radio non si sostituisce al mondo, ma ti accompagna, è la colonna sonora della vita. La sua magia è nella parola e nella musica. Incanta più della visione e al tempo stesso fa pensare. Vai in TV e ti notano la cravatta, vai in radio e ti notano un concetto. Ascoltate la nonna, lei è di parola. Veniamo alla prima pagina di Libero, che anche in questo caso ha un titolo diverso, sciopero fiscale. Ci sono il riferimento in realtà è alla Tari, la tassa sui rifiuti, che ha subito dei rincari fino al 600%, poi all'interno li trovate tutti dettagliati per categorie di contribuenti, pizzeria al taglio e fruttivendoli costretti a versare più di un albergo, e così è scattata la rivolta, da qui appunto il titolo sciopero fiscale. A Cremona ad esempio il 70% delle imprese non ha pagato, ma ci sono proteste anche in Sardegna e Sicilia. L'articolo del direttore Maurizio Belpietro è dedicato alla vicenda, lo sapete, dei matrimoni gay, ne abbiamo parlato anche così di striscio ieri alla rassegna stampa europea, e con l'invito del ministro dell'interno Alfano a tutti i sindaci a non registrare le unioni tra omosessuali avvenute all'estero, e poi la rivolta di alcuni sindaci come il sindaco Pisapia di Milano, che in realtà ha detto io le registro lo stesso, e Maurizio Belpietro, quindi la crociata contro Alfano: cari gay sposatevi ma non fatevi usare dai sindaci rossi. La prima pagina del Fatto Quotidiano, soli a mani nude, Genova nel fango, anche qui la foto è di alcuni soccorritori, anche in questo caso molto giovani, che danno una mano, svuotano dei bidoni pieni di fango. E poi in prima pagina, con un certo risalto, anche naturalmente la kermesse del Circo Massimo, Grillo e Casaleggio, BCE pronti alle armi. Vi segnalo infine la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove c'è naturalmente spazio alla partita di volley di ieri sera, che è stata seguitissima tra l'altro. Azzurre, peccato, il sogno sbatte contro la Cina. Sapete, la nazionale di pallavolo italiana ha perso contro la Cina, però potrebbe ancora arrivare terza, tra il primo e il secondo posto se lo vedranno Cina e Stati Uniti. Ma in realtà il titolo della copertina è dedicato all'intervista a Pippo Inzaghi, l'allenatore dell'Inter. L'Europa è casa Milan, il tecnico rossonero si racconta dopo i primi tre mesi. Dobbiamo tornare nel grande giro, la Coppa Italia ora è la nostra Champions, il suo sogno è emulare Ancelotti. Veniamo alle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dal Corriere della Sera un approfondimento su tutto quello che è successo al Circo Massimo, con questa dichiarazione, un'altra dichiarazione a effetto di Beppe Grillo: basta con il Parlamento, meglio le piazze. E poi, siccome Beppe Grillo ha anche detto che lancerà una sottoscrizione, una raccolta firme per indire poi un referendum per uscire dall'euro, ecco, allora vi segnalo questa intervista a Roberta Lombardi, ex capogruppo alla Camera, la ricorderete nell'incontro in streaming con Pierluigi Bersani, quando ancora Bersani cercava di formare un governo. E poi lei viene intervistata anche perché l'organizzatrice della kermesse del Circo Massimo, ha questa risposta. Fuori dall'euro? Risposta di Roberta Lombardi. Non lo so, non ho gli strumenti macroeconomici, sicuramente così non va, ma forse è meglio occuparsi del debito. Questa è la risposta di una figura di spicco del Movimento 5 Stelle a poche ore dalla dichiarazione del leader, anche se lui dice che non è un leader per sempre, di lanciare una raccolta firme per avere un referendum per uscire dall'euro. Va bene, a proposito di democrazia, visto che appunto questa dichiarazione di Grillo basta col Parlamento, che il Parlamento è direi la massima espressione di una democrazia con tutti i suoi limiti, ma nessuno ha trovato un modo migliore per rappresentare l'opinione di tutti. E vi segnalo a proposito appunto di democrazia una bella intervista a Mario Vargas Llosa, che tra l'altro non è un uomo di centrosinistra per sgombrare da ogni equivoco possibile, anzi si è sempre dichiarato un uomo di centrodestra, di destra, e dice, scrittore peruviano, premio Nobel, uno dei grandi intellettuali sudamericani: basta pessimismo, la democrazia non è stanca, sono i totalitarismi a retrocedere ovunque. L'intervista è di Danilo Taino, e per esempio c'è una a quello che sta succedendo a Hong Kong. Guardate Hong Kong, l'apertura economica esige un'apertura politica. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche un commento di Salvatore Bragantini a quello che sta succedendo in Luxottica. La cronaca la trovate su molti giornali, anche naturalmente sul Sole 24 Ore. Dopo l'uscita di scena dell'amministratore delegato Andrea Guerra, c'è una sorta di lotta interna. Tra l'altro il nuovo amministratore delegato, uno dei due amministratori delegati, delle persone scelte per guidare l'azienda, che appunto dovrebbe avere una sorta di doppio amministratore delegato cavatorta, potrebbe essere in uscita. Una delle come conseguenza dell'intenzione della terza moglie di Del Vecchio di aumentare la sua quota nella finanziaria che controlla Luxottica, e il titolo del commento di Salvatore Bragantini: Luxottica più importante di una disputa familiare. Vi leggo solo le ultime righe. Conosco e stimo molti membri del CDA di Luxottica che stanno certo lavorando dietro le quinte. Sanno bene che il loro dovere fiduciario è verso Luxottica, non verso Del Vecchio, che è il fondatore nonché presidente di Luxottica. L'interesse dell'impresa va molto al di là dei soggetti controllanti o anche di tutti gli azionisti. Luxottica è ormai una bandiera, di mezzo c'è l'interesse di un grande paese che troppo spesso non regge la fatica di esserlo. Non è solo il mercato, è tutta l'Italia ad aspettarsi su tale impresa da persone di simile levatura parole chiare anche fuori dal CDA. Luxottica è un'azienda da 7 miliardi di euro di fatturato ed è il leader mondiale assoluto nella produzione e distribuzione di occhiali di fascia media, medio e medio alta, quindi appunto non parliamo di un'azienda qualunque ma di un leader mondiale che adesso ha dei serissimi problemi di governance. Dalla Repubblica vi segnalo due interviste, una ad Angelo Scola. Il no ai divorziati resta, ma non è un castigo, e sugli omosessuali la Chiesa è stata lenta. Quindi Angelo Scola, cardinale, arcivescovo di Milano, e in questa intervista Paolo Rodari parla di tanti temi e spiega come dopo la prima settimana di lavori del sinodo di cui abbiamo parlato non è ancora stata trovata una risposta alla possibilità di ammettere i separati alla comunione senza colpire l'indissolubilità del matrimonio. Ma insomma è sembrato a tutti l'ennesimo cambiamento nell'atteggiamento dei vertici della Chiesa Cattolica, quest'idea, se non altro, di discutere di questi temi così difficili e così spinosi. Vi segnalo poi un'altra intervista bellissima da Amartya Sen, anche lui premio Nobel per l'economia in questo caso, mentre naturalmente Vargas Llosa lo è stato per la letteratura, che parla anche di Malala, che tre giorni fa, ha ricevuto invece il premio Nobel per la pace. Malala ci insegna che diritti e scuola camminano insieme, ora tocca ai governi. Malala Yousafzai, sapete, quella ragazza che è stata quasi uccisa dai talebani per il solo motivo che voleva andare a scuola, poi si è spostata in Inghilterra dove l'hanno operata e salvata e adesso vive in Inghilterra. Ci fermiamo un attimo per il traffico, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte della rassegna stampa, ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Dalle pagine interne dei quotidiani eravamo su quelle di Repubblica, ora passiamo al Sole 24 Ore. Vi segnalo a pagina 6 un approfondimento sul petrolio, le materie prime di cui forse parliamo sempre troppo poco perché sono in realtà la base di tantissimi movimenti macroeconomici. Ed ecco allora che Sissi Bellomo ci racconta come con il greggio e il petrolio ai minimi il mercato ora si aspetta dei tagli di produzione, perché sapete che è un po' così appunto con l'OPEC, il cartello del petrolio che controlla i prezzi, quando appunto scendono diminuisce la produzione in modo da farli risalire o almeno da tenerli stabili. Il Brent tocca $88, faro sull'OPEC. E poi il commento di Leonardo Maugeri: nel mondo ormai c'è troppo petrolio. Dalla prima pagina di Norme Tributi un approfondimento sulla TASI, perché sapete che mancano 4 giorni al giorno fatidico in cui la dovremo tutti pagare, se sappiamo quanto dobbiamo, perché sapete che ci sono ancora dei comuni che non hanno ancora nemmeno deciso e quindi comunicato l'aliquota di questa imposta, che ha in parte sostituito l'IMU e che secondo Renzi nell'anno prossimo di nuovo dovrebbe cambiare per poter semplificare la vita ai contribuenti. Vi dicevo di Luxottica, sulla copertina di Finanza e Mercati del Sole 24 Ore trovate l'approfondimento di Marigia Mangano che spiega tutta la vicenda, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Luxottica. Vertice cavatorta del vecchio, confronto tra il manager e il fondatore, sul tavolo ci sono anche le dimissioni dell'amministratore delegato. Uno schema che spiega quella che prima ho cercato di spiegarvi a parole, ma è molto più semplice vederla rappresentata graficamente, la catena di controllo di Luxottica. A proposito di Hong Kong, citata da Vargas Llosa come un esempio per spiegare come a volte il benessere economico e quindi porti anche una domanda di democrazia, una intervista di Ilaria Maria Sala al leader della protesta Benny Tai, leader della protesta di Hong Kong: Pechino non può fermarci, diventeremo l'avamposto per la democrazia in Cina. E dalle pagine interne del Messaggero un articolo interessante sul fatto che c'è un boom di trapianti, donatori a Roma per quanto riguarda i trapianti. Sapete che uno dei problemi in Italia è che appunto ci sono pochi donatori in generale. Ecco, a Roma la situazione sembra essersi invertita. C'è anche uno schema che spiega quanto importante sia appunto aumentare il numero dei donatori. Pensate che in lista d'attesa per una donazione ci sono solo a Roma 8.937 persone, e il trapianto più atteso è quello di rene, ci sono 6.738 persone che ne avrebbero bisogno. Dall'Avvenire, che come sempre segue magari questioni che gli altri giornali si lasciano un po' sfuggire quando appena si spengono i fari della cronaca, innanzitutto la reazione dei talebani al Nobel a Malala, di cui nessuno ha parlato. Ecco appunto: rabbia talebana, uccideremo Malala, nuova minaccia degli estremisti contro la giovane vincitrice, abbiamo preparato coltelli affilati per i nemici dell'Islam. E poi un approfondimento su Gaza, anche lì sapete in estate abbiamo tutti parlato di questa guerra a Gaza e poi più niente, perché c'è stata la tregua. In realtà Gaza è distrutta. E allora oggi spiega l'Avvenire: al via al Cairo la conferenza dei donatori, la Casa Bianca spinge sulla ripresa dei colloqui, con uno schema che ci ricorda i numeri di quest'ultimo capitolo della guerra in Medio Oriente: 2.139 morti a Gaza, civili e soldati israeliani 71, 60.000 le abitazioni distrutte nella striscia di Gaza, 4 miliardi la cifra in dollari chiesta ai paesi donatori. Un altro approfondimento dell'Avvenire sulle donazioni per la cultura: tra arte e cultura resistono le banche e il mecenatismo delle fondazioni, nel 2013 sono stati donati quasi 270 milioni. E poi vi segnalo una cosa che ho trovato sull'Avvenire, sul secolo XIX, sono. Il progetto della Philip Morris, le sigarette del futuro, quasi un aerosol. Non bruciano, non producono fumo né cenere. C'è già una sperimentazione in corso in Italia e in Giappone. Ma passiamo ai supplementi culturali, anche se ci resta pochissimo spazio. Naturalmente iniziamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, di cui però parlerà tanto anche Alessio Maurizi in Si può fare, quindi vi cito velocemente solo la copertina, Il lavoro del XXI secolo, che è un estratto di un libro che uscirà nei prossimi giorni dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, Investire in conoscenza, crescita economica e competenze. E poi naturalmente, come sempre, il breviario di Gianfranco Ravasi, che si chiama Festina lente, che è un detto latino, e la citazione però in questo caso è di un critico francese, Nicolas Boileau, ed è: nell'arte affrettatevi lentamente senza perdervi d'animo, 20 volte cominciate e 20 volte cancellate, alla fine avrete creato una bella cosa. Festina lente, appunto. Forse i lettori che hanno frequentato l'antico liceo ricorderanno questo monito che l'imperatore Augusto II Svetonio rivolgeva ai suoi comandanti. Il senso dell'ossimoro è chiaro: si deve operare senza indugi, ma anche con cautela, ponderazione e prudenza. Questa regola è riproposta nella nostra citazione del poeta e critico francese seicentesco Nicolas Boileau: l'affrettarsi lentamente vale certamente per tutte le arti che non possono far raffreddare l'incandescenza dell'intuizione, ma che non devono neppure avvoltolarsi nell'inconsistenza dell'inerzia o della mera ripetizione. Il monito però è necessario per tutti, specialmente in una società così frenetica come la nostra, che conosce solo il festina e ignora la riflessione. Perciò, col Ferrer manzoniano, ripetiamo l'appello che egli rivolge al suo cocchiere: adelante, congiuscio. Bene, invece la rubrica del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, Memorandum, è un po' un viaggio nella memoria. Da Bagnoli si è recato a Procida. Bagnoli, ancora futuro, il segreto di Procida. E su Procida il direttore dice: ho incontrato amici che non vedevo da un po' e ho constatato che non è cambiato niente o quasi. Anche la rete fognaria continua a reggere a fatica, ma mi è sembrato un risultato che la situazione non fosse peggiorata e assomigliasse tremendamente a quella dei miei ricordi. Anche qui potremmo dire: ci siamo fatti vecchi, ma non è cambiato nulla. Si eviti almeno di togliere a Procida ciò che la natura le ha generosamente regalato. Passiamo invece alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, che sapete ha sempre una copertina commissionata a un artista. Oggi è a Paola Pivi, che ha messo insieme tutte queste foto in uno stile usato in particolare dai monaci tibetani. Ma dall'interno vi segnalo un articolo di Serena Danna, Il nuovo Steve Jobs sarà una squadra, prende spunto dal libro The Innovators di Walter Isaacson, che è appena uscito negli Stati Uniti. Il singolo individuo che produce innovazione è un'illusione, il genio funziona con lavorando. L'infografica, sapete che a me piace molto questa pagina dedicata alle infografiche, oggi è tutto sull'immigrazione degli indiani. Arrivarono col circo, sono i nostri mungitori. Gli indiani di religione Sikh in Emilia, gli ecuadoriani a Genova, quindi non solo gli indiani ma tutti gli immigrati, gli albanesi in Trentino. Dietro la distribuzione degli stranieri in Italia ci sono dinamiche complesse e anche alcuni falsi miti. La Domenica della Repubblica, la copertina è dedicata a Truffaut, perché a Parigi c'è una grande mostra che celebra il regista della Nouvelle Vague. Jean Moreau e Jean-Pierre Léaud ci raccontano l'uomo più metodico del mondo, così lo ricordano. E poi l'intervista di Antonio Gnoli della serie Straparlando a Gioachino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che secondo quello che dicono i critici si ispirò proprio a Gioachino Lanza Tomasi per il personaggio di Tancredi del Gattopardo, però secondo il figlio adottivo la sua ossessione era un'altra: il teatro e la drammaturgia. Dalla prima pagina di Macro, il supplemento del Messaggero, vi segnalo un approfondimento sulla biografia di Thomas Millian, che trovate in realtà anche su altri giornali, ma insomma, siccome è romano era giusto segnalarla dal Messaggero. Thomas, in arte Ermon Nezza. Ultima cosa sul Messaggero, no, Carmelo, sul Manifesto un articolo su André Zanzotto, ma Carmelo Lauricella in regia mi fa segno: basta, hai parlato troppo. Ci sono comunque tantissime altre segnalazioni ci sarebbero tantissime altre segnalazioni da fare. Un invito a sfogliare con attenzione i quotidiani della domenica, più ricchi ancora del solito di articoli così che stimolano un po' il pensiero laterale. Una buona domenica da Giulia Crivelli.